Stai ascoltando Coxo Spaziali. Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Peril from outer space. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Stanco, smunto, smagrito, svogliato, disamorato, disfatto, estenuato, fiacco, logoro, impasquinito, sbattuto. Oggi mi sento proprio bene, tanto che mi sono staccato dal divano per una passeggiata in centro. Spesso nelle mie derive psicogeografiche mi fermo ad osservare i negozi di quei pochi avventurieri che ancora credono nella partita IVA. Stolti. Quelle degli immobiliari sono quelle che mi piacciono di più, con le loro vetrine asettiche e luminosissime, in cui ammirare delle vere e proprie installazioni in acciaio e plexiglass splendente che contengono centinaia di cartelli in formato necrologio, che promettono affari a 5 o 6 zeri. Giro l'angolo e un'insegna verde menta mi segnala una panetteria, tutta in legno nero Wenge e micro LED direzionali che espone sfilatini integrali e pizzette farcite come fossero i gioielli della corona. E visto i prezzi potrebbero pure diventarlo un giorno. Procedo sul marciapiede di destra, tra mozziconi, sanpietrini e merda di cane. E guardando una mamma che slalomeggia incurante col suo passeggino, penso, ci siamo abituati a tutto. Ci abitueremo pure a Trump, o no? Cox spaziale. You want my body, want my love. Want me naked in this club. Want me dancing on your rug. Oh no, I bet you want me in that supermarket. Caught on the milk and chocolate. Bending over fruits and nuts. Oh stop. You won't remember where we were. Don't believe your dreams are real. But baby, don't remember how I make you feel. i miei primi 40 anni hanno una durata percepita variabile. Buon compleanno Radio Città Fujiko. Sono Coxo Spaziale e ascolto Radio Città Fujiko da 40 anni. Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Sono Paolo Assei e sto ascoltando Coxo Spaziale. I 2 minuti di Lonely hanno una durata percepita variabile. Chissà dove sei, perduta nella notte, col tuo trucco infame, la tua giacca da bandito. Io ti ho aspettato all'ombra dei tuoi percome, col mio viso angelico percosso dai fatti. Già finito? Grazie. Salgo le scale con i piedi e le mani in tasca, ho i soldi, le chiavi in testa, ho i resti degli occhiali, nomi e cognomi vari. Personaggi che ho già visto, ma non saprei dirti quali, non insisto. E nonostante ciò riparto dall'inizio, vediamo se resisto. Se penso in quanto tempo mi sono pettinato, faccio in tempo a fare un giro a piedi in tutto l'isolato. Faccio in tempo ancora a dire che mi sono ammalato, che non posso presentarmi, che peccato. Ma mi sento così giovane guardando su MTV che il vero peccato è rimanere qui. Perciò metto una camicia più fresca e un jeans più pulito che resta liscio come una pesca, mi avviso. Ma quando sono fuori mi son già pentito e mi scoccia anche tornare adesso che mi son vestito. E rimarrò, guarderò il soffitto, guardo l'orario sul telefono, poi guardo tra i messaggi ma nessuno ha scritto. Troppo impegnato per capirvi in mezzo a gente che è troppo impegnata a divertirsi per capirmi. C'è gente che potrei conoscere e che non saluto se non salutano prima me. E non capisco sti parti di cui tanto si parla, e perché aspetto un'ora in macchina per avere il fascino di chi ritarda, di chi non si riguarda, di chi vive ogni istante con la testa alta. Voglio vivere la mia vita dal tramonto all'alba. Forse no e mi rimetterò in mutande come Dalla. Disperato erotico, ma stasera non mi adopero. Rivoluzioni sessuali improprio, mi sembra improprio farsi viaggi giganti. Quando m'hanno male salgo le scale e sfanculo tutti quanti. contro il muro, non allo stadio. Santi numi. Chienna. Sono Andrea De Carlo e sto ascoltando Coxo Spaziale. Coxo Pasquini. Comunichiamo che per via del maltempo la 158esima puntata di Coxo Spaziale va in onda in forma ridotta. Grazie. Creatività generica. Light. con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Traipsing up and down my backyard gets you caught, I die. Digging through my trash cans with that white rope tied around your neck. You mistake me for some southern goddess, some Delta girl done me sick. Don't take it away from me just yet. There's no one I could think of that I could stand less than you. Don't you wanna touch my hands before you go? I think I'm confused. Spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale, cox spaziale. Mm-hmm.